Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sono passate da poco le 21, da circa 2 minuti. Buonasera da Blu Radio Veneto, buonasera dalla voce di Agostino Spolavore. Come di consueto, ovviamente quando c'è Agostino c'è anche il nonnetto, cioè Maurizio. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Ormai sei nonnetto. Ormai sì, sono nonnetto effettivo, però nonnetto musicale, dai. Nonnetto musicale. Esattamente. Comunque te lo meriti perché sei un pozzo di conoscenza. Allora, questa sera sarà una serata rock all'insegna di una band padovana. Provincia. Sì, Monselice. E dintorni, possiamo dire così. Sono gli Open Liberty, se non sbaglio. Ma li presentiamo tra qualche istante. Prima, come di consueto, le nostre informazioni tecniche, cioè il numero telefonico, quello in studio, lo 049-875-6423. Mentre per quanto riguarda i vostri sms, se volete mandarli anche per chiedere qualcosa, per salutare questi amici che ci sono venuti a trovare, questa sera e a suonare, ovviamente, vi ricordo il nostro numero di sms, il 346-2320-033. Se state ascoltando via radio, le frequenze sono 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Se invece volete ascoltarci anche tramite internet, il cosiddetto streaming, basta che andate nel nostro sito, cioè www.bluradioveneto.it. In alto, circa più o meno, insomma quasi all'estremità sulla sinistra, c'è scritto ascolta la radio e cliccando lì si sente Blu Radio Veneto 24 ore su 24. E oltre ad ascoltare potete comunque anche vedere il nostro sito, dove trovate tutte le informazioni inerenti alla nostra regione, ma anche recensioni, presentazioni nei prossimi live che faremo qui in studio. Insomma, c'è un po' di tutto anche nelle notizie, diciamo, semplici, anche quelle di cronaca. E poi ancora, cosa vi devo dire? Vi ricordo le nostre pagine su Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto, una, l'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita, come di consueto, insomma, ve lo dico sempre, dal nostro direttore artistico, che grazie a lui ha portato questa band questa sera, cioè Alberto Prisco. Maurizio, ho detto tutto, sì. Sì, hai detto proprio tutto. Adesso assolutamente. Lascio a te il compito di presentare. Io vedevo una cosa molto positiva e piacevole. Lui stava via accordando la chitarra. Fammi sentire un'altra volta il suono della corda della chitarra. Ecco, adesso l'hai accordata perfettamente. Qual è quello strumento che usavi per accordarla? L'accordatore. No, non si usa l'accordatore, quello elettronico. No, beh, io la stavo semplicemente lucidando le corde. Ecco, bene, una cosa molto bella, stava lucidando le corde. Col fast frit. Lui è Massimo Arles, giusto Massimo? Giusto, ciao a tutti. Ciao, benvenuto anche a te, presentiamo anche gli altri ovviamente. Stefano Giorio alla voce. Ciao a tutti. Marco Orlando al piano. Buonasera, ciao a tutti. E Stefano Masiero al basso. Ciao. Ciao, ciao. E ciao ovviamente alla chitarra Massimo. Sono gli Open Liberty. Abbiamo anche una fotografa stasera, sì. Assolutamente. Decisamente ufficiale. Decisamente meglio di me, lo so. Più bella di te, stavo dicendo. È meglio anche di me, assolutamente. non ti giudico le foto, dico la bellezza. Sì, dal punto di vista fisico non c'è paragone. Non c'è paragone. Assolutamente. Allora, bene. Cominciamo allora la cavalcata, cosa dice Agostino? Certo, è una cosa che l'origine di Speed of Sound, Stefano sei davanti, Speed of Sound mi ricordava qualcosa di Paul McCartney, non c'entra niente con Paul McCartney, con Speed of Sound, questo non c'entra niente. Com'è nato questo progetto Speed of Sound un po' di tempo fa? Vedete davanti al microfono. Sì, ciao a tutti, il progetto è nato nel 2008, lanciato da me e Marco Orlando. Abbiamo fatto varie esperienze come Speed of Sound, noi due da soli come duo, e poi abbiamo formato gli Open Liberty e pian piano poi abbiamo iniziato a registrare il disco da Simone Cerchiaro e abbiamo trovato tutti gli altri musicisti che adesso sono effettivamente gli Open Liberty. Quindi Massimo Arles alla chitarra, Tilionin alla batteria. Che non c'è stasera, che non c'è. E non c'è. Ciao Tilio! E... Marco Orlando, che è il mio super socio di inizio, e Stefano Masiero. Che è il più giovane, mi pare, come aspetto fisico. Sei il più giovane di tutti. Guarda, sono giovane fisicamente. È più giovane Marco? No, siamo coetanei. Ah, siete coetanei. Marco ha la barba. Marco ha la barba. Anche te c'è un pochettino di barba. Ma devo tagliarla. Sei finta. Stefano, cortesemente, quando parli vicino al microfono, se no si sente poco, sai. No, sì, quello lì. Oh, anche ok, allora... Questa è la prima, avete formato la band, vi siete sviluppati. Musicalmente, io voglio sapere da te Stefano una cosa. I Speed of Sound, che sound avevano? Ma Speed of Sound era principalmente pop. Perché ridi? era pop, pop è mica brutta cosa, pop vuol dire no, popular, dimmi Marco, ricordi molto, l'hai sotterrato sto ricordo. No, ti spiego, ride perché abbiamo fatto due album registrati in garage a Monselice e adesso gli altri ogni tanto lo vogliono assolutamente sentire per ridere, perché eravamo con la tastiera, facevamo tutto con la tastiera, anche la batteria, vedete voi. Erano oggetti di collezione questi due demo praticamente, sono ricercati nei mercatini praticamente. Quelli delle pulci. Quelli delle pulci, esattamente. Quindi lo sviluppo della band, poi finalmente il nome ufficiale e avete cominciato a creare i pezzi, a creare il sound, a creare la vostra impostazione. Certo. Qua è così, Marco. Dimmi. No, sì, ma che difficoltà c'è stato a riunire questi diversi componenti? È stata una cosa piacevole o ci sono state delle difficoltà? No, beh, più di tante difficoltà non sono state, non ce ne sono state. L'accordo l'avete trovato immediatamente o quasi? Sì, beh, abbiamo provato persone che purtroppo non si addicevano. Ah, ho capito, cioè le nostre aspettative, insomma, come è normale, penso. Può capitare, cioè determinate persone avevano altri indirizzi sonori, certo, altri indirizzi musicali. Fortunatamente abbastanza presto abbiamo trovato quelli giusti. Avete trovato quelli giusti? Sì. E anche senza troppi problemi. Anche senza troppi problemi. E incidere un album è una cosa molto bella, favolosa. Che sofferenza c'è a incidere un album? A buttarsi dentro per i pezzi, creare i pezzi dopo tanta sofferenza. Incidere un album è una cosa bellissima. Sapere che un album è in un negozio, per esempio. Sì, facciamo, sarebbe una gran bella soddisfazione, ecco. Certo, perché fisicamente pazienza. L'abbiamo il disco qua davanti, eh. Certo, parecchia pazienza naturalmente come su tutte le cose, tanta passione, ecco, quello sì. E suonare dal vivo, cominciare a suonare dal vivo, farsi sentire dagli altri, farsi vedere dagli altri, farsi conoscere dagli altri. Sì, anche quella è una gran bella emozione, soprattutto se a un certo punto vedi una certa risposta del pubblico, ti regala molte emozioni, ecco. Ecco, Stefano, visto che sei qua vicino, un mix tra rock ed elettronica. Marco all'aspetto elettronico, c'ha la tastiera, una bella Roland, si può anche citare, la marca è famosissima, non ci sono problemi di pubblicità, dà una certa impostazione, le chitarre ne danno un'altra, e la voce, Stefano, che impostazione dà, visto che sei il frontman, sei il cantante della band? Beh, data la mia voce particolarmente con una tonalità bassa, e diciamo che dobbiamo un attimino sistemare il tutto, nel senso che loro devono suonare a certe tonalità per favorire il cantante che sono io, insomma, però non è un problema, sinceramente, anzi è una sfida in più per far sentire una cosa diversa ciò che stiamo cercando di fare. E, insomma, noi crediamo modestamente di esserci riusciti, però insomma lasciamo giudicare gli altri i concerti, vediamo una bellissima risposta e siamo elettrizzati, sorpresi a volte dalle persone che ci fermano e ci dicono che abbiamo regalato un'emozione. Quindi adesso noi dobbiamo impegnarci sempre di più per continuare a fare ciò, insomma, che è una bellissima cosa. Io vi porto già dei saluti, ragazzi, cioè è arrivato un messaggio, dice saluti dal Radice Sonora Studio, in bocca al lupo e saluti alla radio. Ciao Simone. Simone Win in gamba. Ciao Simone, allora cos'è il vostro... È il tecnico del suono e colui che ci ha dato una mano anche negli arrangiamenti del disco che... E che ha registrato l'album. Sì, che si chiama Odyssey. Quindi è parte in causa, insomma. È parte in causa, ma adesso sicuramente starà registrando qualcun altro, ma con un occhio particolare per noi, visto che siamo finalmente per la prima volta in radio. Con un orecchio particolare per noi. Molto particolare, perché poi prenderemo un sacco di parole. Ecco. Domani, Diciamo che è il sesto Open Liberty, giusto? Esatto. Va bene. Si può dire così, sì. È George Martin dei Beatles. Ah, ecco. Tanto per volare basso. Esatto, per volare basso, assolutamente. Cosa dici, Agostino? Sì. Iniziamo a sentire l'album praticamente. Sì. Hanno scelto la canzone, la traccia numero 2, Psy, giusto? Esatto. Ci parlate qualcosa di questa canzone o volete che ne parliamo dopo il pezzo? Beh, Psy parla di uno yes man che si comporta così con lo scopo di essere accettato e ben voluto da tutti. Ad un certo punto capisce che tutto ciò non ha senso e che essere se stessi è la prima forma di amore e rispetto nei propri confronti, e nei confronti degli altri, questa, questo Parla Psy. Ok, l'ascoltiamo. SMS 346 2320 033. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Bello, accattivante questo pezzo. mi è piaciuto molto. Ma questa voce finale che parla così da persona quasi anziana, chi è? E sei sempre te. Sono sempre, sempre io. Sei sempre tu. Sei sempre. E sì, proprio giustamente come dice te Agostino, è un pezzo che ruota intorno alla voce di Stefano. L'hai composto te questo pezzo? L'hai creato te e poi gli altri ti hanno dato una mano nella creazione del... Bene, nella creazione di questo primo disco l'abbiamo fatto assieme io e Marco. E Marco Orlando e poi si è aggiunto anche Simone Cerchiaro. Poi man mano che comunque sono entrati i musicisti più avanti hanno cominciato a dare contributi e nel prossimo che stiamo già registrando si sentirà. Avete già qualcosa di pronto anche per il prossimo album? Sì, siamo già due pezzi, uno pronto e uno quasi, però insomma... Abbiamo gettato le basi. Avete gettato le basi. Ritorniamo a questo pezzo qua che era molto, come ha detto giustamente Agostino, accattivante, prende immediatamente. A me interessa l'arrangiamento. La voce di Stefano è il centro di tutto, ruotano tutti gli strumenti e adesso mi interessa il tuo solo chitarristico, visto che sei qua davanti. Adesso stasera hai una chitarra acustica però esatto. Nel disco hai una chitarra elettrica. Vai. Cosa dire della solo? Come hai avuto l'idea allora, di fare la solo dentro, quasi nel finale del pezzo? Poi Marco alla fine lo conclude col piano. Allora, di solito noi creiamo sempre le basi lasciando gli spazi per ogni strumento. Poi per... Quindi una tavolozza centrale iniziale per poi... Dentro la tavolozza, esatto. Metterci le diverse. Oltre al cantato, lasciamo sempre una parte, magari che può essere. Gli quindi archi. Una piccola dose di sperimentazione, possiamo dire questo. In questo brano, l'assolo, secondo me, svolge una funzione veramente importante perché, come diceva appunto il brano, che parla di quest'uomo, di questo yes man che alla fine si libera. Quindi, dopo la bomba, c'è questo assolo che. Liberatorio, urla con me, capito? E quindi si è puntato a far urlare la chitarra. In quindi praticamente dare una scossa ritmica. Esatto. Una scossa. È un urlo. Un urlo vero e proprio, liberatorio. Liberatorio. Esatto. Un urlo sonoro. E il nostro batterista sonoro. Che non è presente, che funzione ha in questo pezzo? È il cuore della band. È il cuore, appunto, volevo sapere. Adesso esatto. Non c'è, però possiamo sostituirlo praticamente. Lui fa la parte... ritmica dal battito, insomma. Esatto, ecco. E questo è un pezzo che può anche aprire i concerti oppure no? Noi aprivamo i concerti con questo pezzo. Vedi. Iniziavamo proprio con l'arpeggetto di chitarra lento e via. E poi sì. Quindi insieme un coinvolgimento totale da Stefano in poi, anche il bassista qui davanti, è giovane, non è giovane come Marco, ma è giovane lo stesso. La tua funzione in questo giovane pezzo. Lui, è più giovane lui. Vai, vieni al microfono, sì. Parla con quello là. Beh, insomma, io devo dare ritmo alla canzone e dopo cercando magari di mettere qualcosa di mio, cercando di arricchire e dare quello che... Cioè, quello il canovaccio è abbastanza, non dico fisso, ma abbastanza fisso. Poi ci sono diversi elementi che vengono inseriti dentro e tu nel basso devi dare un certo senso. Perché, come tutti sappiamo, il basso e la batteria fanno una band. Sì, è il cuore. È il cuore della band. Tu sei giovane, ma sei forte in ogni caso. Scheletro, è un, diciamo, un basso pesante. È un Fender, mi pare sia un Fender. Sì, no? Sì. Quando sei un Fender, è tutto a posto. Esatto. Suona da solo. Maurizio, tu parlavi del cuore del pezzo, cioè il batterista, giusto? Sì, certo. Ce l'abbiamo. Ah, bene, Attilio. Bene. Ciao, Attilio. Grande Attilio. Ciao a tutti. Quella, il nostro drummer, il batterista. Oh yeah. Oh yeah. Senti, non posso, un po' rumoroso. Sì. Cioè in bagno? Da poco, sono uscito da poco, ma sono in bagno. Non entriamo nei particolari, dai. Parlavamo sono il cuore, sì, il cuore del pezzo, giustamente, basso e batteria. E poi è accattivante, fa movimento, questo possiamo dire, questo siete d'accordo, fa movimento, certo. Quello è importante, certo. L'idea del movimento, l'idea del pezzo così movimentato è nato anche da te oppure no? In parte sì, soprattutto sulla rifinitura e sulle canzoni nuove. Sulla rifinitura e sulle canzoni nuove. Ho cercato di dare un po' la mia parte, anche se... un po' era già stata improntata, però ho cercato di non dare fare diciamo, modesto, la mia, non fare spunto. Modesto Attilio, ah, sei vabbè, tu allora e basta. Va bene, dai, allora grazie, allora dai, sì, un pochino, ci ho messo anche del mio. E bello, il bello di stasera, Attilio, tu lo sai, è una rivisitazione acustica senza di te stasera. E quindi non è una questione molto semplice. Hanno rifatto, possiamo dire così, ragazzi, ci ha messo la prova. Avete rifatto praticamente tutto, tutto. I pezzi che presentate li avete sconvolti nel senso positivo del termine. Esatto. Attilio, è una bella cosa secondo me, non è che ti vogliono mettere da parte quello. Stai attento, Attilio, stai attento. No, beh, ho diciamo ordinato che alla fine... la drum machine. Sì, bravo. No, diciamo che anche in questo caso la batteria volendo potrebbe dare la sua parte, ovviamente non essendo troppo invasiva e arricchendo comunque anche la parte acustica in modo leggero. Sì, ma il pezzo che abbiamo detto è un serie di momenti tra l'acustico e l'elettrico e poi un finale al piano. Marco, perché questo finale così dolce al piano? Bah, diciamo che finali e introduzioni sono abbastanza caratteristiche del nostro primo album. Era innamorato. Piano. È innamorato Marco. Beh, Tilio, lasciamo stare. È innamorato, stare, confermo. qua parliamo di gossip, bellissima. Dobbiamo parlare di musica, non parliamo di gossip. Parliamo di musica. ma l'amore ispira anche la musica. Sono perfettamente certo, d'accordo. Certo. Assolutamente, verissimo questo. Quindi questo finale con il piano abbastanza romantico, possimo dire. Sì, sì, diciamo che la quiete dopo la tempesta, il furore, ecco, del pezzo, cioè ha dipanato, l'ha reso più dolce dopo il furore dell'esplosione con l'isergica del nostro chitarrista. La quiete dopo la tempesta. La quiete, insomma, dopo la tempesta, esattamente. Attilio, ma che difficoltà c'hai a suonare con questi amici? Io? Ma quando? In generale? Sì, in generale. Quando, se no? Spero che sono un po' lontano. No, in generale non ci sono grosse difficoltà, sono tutti dei bravi ragazzi, persone con cui si può parlare, si può stare in compagnia sicuramente molto piacevolmente, a differenza di altre esperienze che comunque avevo avuto in passato, perché non sono più un giovanotto neanch'io. Quindi bravi ragazzi, sicuramente. E continuerai questa produzione con loro, insomma? Spero proprio di sì. Se mi vorranno. Ti conviene. Chiamiamo tuo cugino, se no. Ah sì, ok. Che bravo. No, tua cugina. Ho perso la mano ormai, dai. Bene, bene. Ok, grazie a Tilio della partecipazione. Allora, ci sentirai, se potrai sentire, o meglio, se non riuscirai a sentire la trasmissione, chiaramente poi ci sarà il podcast, quindi potrai ascoltare tutto quanto il concerto. Certo. Facciamo così, Attilio, siccome c'è uno spifferato che stanno già proponendo qualcosa per il secondo lavoro, per il prossimo lavoro, la prossima volta che verranno a presentarcelo qui, se vorranno venire ovviamente, se avranno piacere di venire al Blu Radio Veneto, ci sarai anche tu. Certo, sicuramente. Se vorrai venire. Certo, non mancherò. E questa volta è stato un problema contingente legato al periodo, ma la prossima volta sicuramente non mancherò. Non ti preoccupare. Sei presente lo stesso qui con loro, sei nel loro cuore, insomma. Infatti vi ringrazio e saluto tutti i ragazzacci. Ciao Attilio. Ciao Attilio. Ciao Attilio. Ciao Attilio. Ciao Attilio, ciao. Ciao, buona serata. Bravo. Questo era il batterista Attilio Nin. Ragazzi, vi porto un altro saluto e dice: wow, che carica Psy. Se tutte le canzoni sono come questa, la band è destinata a sfondare. Silvi. Oh là là. Ciao Silvia. Una cosa molto bella di questo album è la copertina. Citiamo la fonte della copertina, che è una, dunque, si chiama, l'autrice del logo è Silvia Ferrante. Dimmi qualcosa su questo. Beh, Silvia Ferrante fino a un anno fa ballava con me, perché fino a un anno fa io ero anche un ballerino di pop. Ah, questo non lo sapevo, vedi? Mi scoprono gli altarini, Lei è una persona molto creativa e... Quindi l'idea è stata sua del logo? Te. Sì, è stata sua e diciamo che ogni tanto io Filippo e lei... anche c'ha anche la maglietta, fammi vedere Filippo, sì. È la maglietta ufficiale. Ah, Stefano, scusa. È la maglietta ufficiale tua, ufficiale della band praticamente, il gadget, no? Diciamo che ogni tanto io e Silvia e altri ci troviamo davanti a una birra in un pub e tra una risata generale e l'altra e escono le idee. E quindi questa è uscita e poi è stata sviluppata insieme. Però l'idea originale è sua e che è quella più importante. Certo, certo, nasce da quella praticamente. Adesso li ascoltiamo dal vivo. Mi pare giusto, le 21:25, il momento giusto per sentire qualcosa dal vivo. Cosa ci fate ascoltare? La canzone si intitola Simply Love e iniziamo con un lento che parla di tutto ciò che passa per la testa di una persona quando si infatua di un'altra persona che è già il fidanzato. Ah, però. Ok. Blu Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. The sun wet by the depth of the sea, which high in the sweetness of your look. In my eyes with no light, being indifferent to love has gone away thanks to you. They told me there was something in life that happens without advice. Advice. Wish from down like a tear of joy, a joy in your face, in your face. Maybe it's only love, simply love, the light madness feeling which happens inside you. Maybe it's only love, simply love, my desire to leave everything behind and to be with you forever. Would it be if I could tell you that I love you in the deepest of my heart? Maybe it's too soon, but life might end even now for me there. Only you. It's like if it was written in the star, you will be the light, you will the light. Wish to join a flash, my uncertain path, my uncertain path, Maybe it's only love, simply love, blind madness feeling which happens inside you. Maybe it's only love, simply love, my desire to leave everything behind and to be with you forever. Happy to be an ordinary man, even if it will break my heart, I'm not ashamed to shout it. It's only love, simply love for you. I'm happy to be an ordinary man, even if it will break my heart, I'm not ashamed to shout it. It's only love, simply love for you. Lo so che mi guardi, Maurizio. Sì, è molto bella. Tu non hai notato una cosa, io l'ho vista però. Il metronomo lo faceva Marco, che dava l'input a tutti quanti immediatamente e diceva: no, devi partire così, devi fare così. La cosa molto bella, secondo me. Era il direttore d'orchestra in questo momento. Io t'ho visto, sei visto in qualsiasi momento, in ogni istante di movimento che tu facevi. Era molto interessante, secondo me. Una cosa molto bella. Lo spirito di gruppo, però, tu davi la guida. Una cosa bella, positiva. Cosa dite? Cosa dici, Stefano? Beh, l'abbiamo citato anche nel nostro libretto sfavillante di 16 pagine. Esatto, sì. Che è contenuto nel disco Odyssey e lui è il direttore d'orchestra, l'abbiamo proprio nominato. Stasera l'ha proprio fatto il direttore d'orchestra, in questo pezzo assolutamente, ha proprio trascinato gli altri, avevi una grossa responsabilità, ma adesso sei mi pare, a posto, sei contento. Ma ero contento anche prima, se per quello. No, diciamo che è abbastanza facile lasciarsi trasportare dal ritmo della canzone, era una ballad, questa era molto bella, molto acustica, è una ballad, sì. E tu l'hai conclusa da ballad, non avevi la chitarra acustica, ma come avessi avuto la chitarra acustica, perché certo, l'hai suonata al piano praticamente. Io li farei gli ultimi 30 secondi, perché a me piaceva, erano tanto. Molto belli, adesso li fai l'ultima parte del pezzo. E le scalette vengono sempre sconvolte qui a Blu Radio Veneto. Non c'è niente da dire. Siamo in diretta. Siamo assolutamente in diretta. Anche il colpo di microfono va bene. Allora, questa parte finale di Simple Love. Cosa sarebbe la vita se non fosse un'odissea? Quest'album è dedicato a tutti coloro che riescono a trovare la forza di trasformarla in qualcosa di straordinario. Va bene così? Ottimo. Odissea. Perfetto. Odissea. Io sono curioso, ragazzi, cioè nel senso che voglio chiedervi come nasce questo nome vostro del gruppo, cioè Open Liberty. Da cosa... Adesso Stefano si mette in posizione e risponde. Assolutamente. Mi metto in ginocchio. Esattamente. Cari ascoltatori, voi non potete vederlo perché non ci sono le telecamere, però si è messo in ginocchio. C'è un motivo. C'è poco spazio e ci sono tanti fili da tutte le parti. È bello anche così, dai. Bello. Ovviamente Chiara, la nostra fotografa, si immortalerà. Assolutamente, sì, questa posizione tua, assolutamente. E quindi le varie figuracce le faremo, penso, stanotte, Stefano, in poi. Ti interrompo un attimo, Stefano, perché è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. Allora, Chiara, che è la vostra fotografa ufficiale, vi fa ufficialmente sapere che lei è fiera e orgogliosa di far parte del vostro gruppo, tra virgolette, di essere la vostra fotografa ufficiale, vi segue da tanto tempo ormai ed è felicissima di essere una di voi. E questo è il messaggio più bello che potevamo ricevere. Me l'ha fatto sapere, io ve l'ho girato così come sta. Open Liberty nasce perché all'inizio io e Marco avevamo una grande speranza di fare qualcosa di bello, che non è il successo, ma fare delle bellissime canzoni di cui essere orgogliosi e presentarle nella maniera giusta. E la libertà è la libertà di fare quello che vogliamo, perché purtroppo non è solo nell'industria discografica, ma anche nella nostra società, siamo liberi, ma neanche tanto. Fino a un certo poi punto. E quindi dobbiamo censurare un sacco di cose, e non è giusto, noi dobbiamo esprimere noi stessi, che è una cosa banale, però purtroppo tre quarti non possono farlo per tanti motivi, insomma. Questo nasce. Giusto, anche la Fender del nostro Stefano, il nostro bassista, esprime determinate cose. Fammi sentire un momento la Fender, che io il basso Fender è un grande amore mio personale, non sono un musicista, ma come se lo fossi praticamente. Ok. C'è poco da fare, il basso Fender ha un altro tocco, il Fender ha una caratteristica primordiale di tutti i bassi. Vedi. Mi fa sempre piacere alla salute se dico basso Fender. E poi suona meglio dell'altro giorno perché è stato fatto un bel lavoretto. Abbiamo messo a posto il basso, tagliandino abbiamo fatto. Ho capito, come le macchine chiaramente. Quanto è bella la diretta. La diretta è una cosa meravigliosa. Chi viene a suonare qua trova difficoltà perché lo spazio è questo, però quando riesce a sistemare il tutto dimentica la difficoltà. la difficoltà, dimentica il caldo, dimentica la pressione e fa musica. Musica è bella, è una cosa meravigliosa. Musica non ha confini, non ha porte, non ha nulla. È musica e basta. Come diceva il buon Finardi, musica veramente. Quindi, insomma, un po' di anni fa. Giustissimo. Voi siete molto giovani, io sono molto vecchio, però Finardi rimane nell'immaginario collettivo di tutti. Lui ha fatto le radio libere e questa è una radio libera veramente, in tutti i sensi. Ok, possiamo andare avanti, parliamo, il progetto si è costituito e si è fatto. Che difficoltà ci sono state per fare i pezzi? Qual è stata la partitura? Qual è stato? Ci sono stati degli attriti musicali? Io lo volevo così, tu lo volevi così, eccetera, oppure no, Stefano? No, sinceramente no. Perché, come ho già detto, questo album, ma poi il prossimo non sarà il prossimo così. Che differenza c'è da questo album? Ecco, è un una po' evoluzione. Il prossimo è un po' più difficoltoso perché ci sono 5 teste, nel senso che prima eravamo in due. Stefano e Marco. Stefano e Marco. Adesso ci sono anche l'altro Stefano, c'è Massimo, la fotografa non c'entra, però fa parte probabilmente della band anche lì. Anche la fotografa. E poi c'è Attilio che non abbiamo dimenticato. Adesso è più difficoltoso, ma queste difficoltà ci porteranno sicuramente a superare Odyssey. E ne sono certo perché comunque ho delle grandi persone e noi ci divertiamo. Sia alle prove, andare a bere qualcosa e andare in concerto, noi sul palco, cioè è la nostra festa. E una cosa volevo chiederti, i pezzi li creati in un garage, avete detto, esiste ancora questo garage? Una volta era una roba mitica creare i pezzi in garage, adesso siamo un po' evoluti, ma il garage esiste sempre nella mente, cioè il garage vuol dire gruppo, stare assieme, quello voglio dire. Diciamo che l'evoluzione è stata da garage a camera da letto. Ah, ma insomma, qualcosina un po' più stata. Comoda, però... Un po' più comoda, però l'insieme sempre l'idea insieme. È sempre quella, certo, del gruppo, certo. Quello. Ma i pezzi nascono sempre comunque da una persona, due, cioè non ci mettiamo lì in saletta prove a provare un pezzo, arriviamo già con un'idea ben precisa per un semplice motivo, perché purtroppo questo non è il nostro lavoro, ci troviamo una volta alla settimana, è un grande hobby e vorremmo farlo, sarebbe bello. Portiamo un'idea base o Marco o Stefano o Massimo o Stefano bassista, Massimo che idea base può portare uno che suona la lisergica e anche suona l'acustica in questo momento? Adesso mi rispondi, visto che c'è poco da fare. Che idea base puoi portare? Stefano porta essere... forse il testo di idea base. No, semplicemente un arpeggio, un riff ritmico, una melodia, ma comunque sempre limitata. E poi sviluppate insieme. Ognuno ha un proprio ruolo, praticamente. Esatto. Cioè, non è che sia. C'è un ruolo, tutti assieme fanno un gruppo unico. Esatto. Ogni momento fa un gruppo unico, questo voglio dire. E quello è la forza vostra, secondo me, no? Più che altro. Dici note. Nessuno sovrasta l'altro. Parlo da solo, purtroppo, scusate. No, parli da solo. Nessuno sovrasta l'altro. Esatto. Cioè, sempre comunque ci si confronta, piace, non piace, possiamo fare così, prova così. Comunque si parte da un'idea, ecco. Voi avete suonato in vari locali di Padova, di Vicenza e di Rovigo. Live, che cosa vuol dire suonare live? I Stefani, i Marco, gli Attilio e il Massimo, cosa vuol dire suonare live, dare la forza, dare il feeling agli altri che vi possono sentire? È una cosa importantissima, è proprio quello di trasmettere e far proprio vedere alla gente che comunque quello che stai suonando tu sei convinto e quindi di conseguenza lo trasmetti a loro. Lo trasmetti a loro, questa è una cosa perché importante. È importante trasmettere proprio perché Open Liberty l'idea è anche di trasmettere agli altri, vero Ste? È portare le idee musicali del disco, portarle dal vivo, che è la summa massima. Esatto. Nel disco fissiamo per sempre le nostre emozioni e poi però le portiamo dal vivo quando c'è già gente che canta i ritornelli. Questo è bello, è fondamentale, bellissimo, gente che canta i vostri ritornelli. Questo è il grande successo. Sì, proprio il grande successo, è proprio così. E una cosa che volevo chiedervi è questa, provate i pezzi nuovi dal vivo oppure no? Cioè, capita che molte band provano i pezzi dal vivo e poi li incidono. È capitato anche a voi? No, non è capitato. Sì, sta capitando. Sì. Sta capitando. Sono delle diatribe, però sta capitando. Perché non siete, molti non sono d'accordo. No, sì, Luca, no. Capita. Massimo è Massimo un perfezionista, non è, quindi non sarebbe d'accordo di provare, sì, i pezzi prima dal vivo. Mentre io sono quello, sei quello che si rompe lancia le scatole a tutti, perché si lancia. Esatto. Come Mick Jagger si buttava tra le signorine o i ragazzi all'epoca, tutti butti praticamente. Ci buttiamo e infatti non a caso lunedì prossimo abbiamo il concerto a Conselve, alla fiera di Conselve. Dobbiamo apriamo, citare i vostri concerti. Sì, apriamo la fiera, faremo un mega concerto, perché lo dico, sono un sacco di novità e vorremmo presentare qualche pezzettino nuovo di una nuova canzone. Non l'abbiamo, piccolino, Massimo piccolino non è d'accordo, però visto la faccia non ovviamente è proprio, dobbiamo ancora come provarla. Quel problema è stata provata, abbiamo una prova. È una prova, però per caso è Like a Perfect Stranger? No, quella è sì, è una radio canzone stop. Radio Song? Song, sì, scusa. No. Il progetto è Radio Song, esatto. La canzone attualmente si intitola Across America e parla... Ho curiosato nella vostra bacheca. Perfetto, per ecco. Parla di un viaggio in America di una persona a caso. A caso. Chissà chi. Che decide di cambiare tutto, va via 20 giorni da solo e trova la risposta ai suoi perché, torna a casa e adesso... È qua a divertirsi con voi e con i ragazzi. Bene, bene. I love America, allora. O no? Sì, è anche una metafora. Insomma, non certo, tanto il certo, paese. Certo. Io sono andato nel paese, però è una metafora. È una metafora. Quindi io citerei, sogno americano, dai, possiamo dire. Citerei a lanciarla, però capisco anche Massimo e quindi... Massimo è un perfezionista, quindi dice... No, meglio di ni. Ni, esatto. Dice ni. Esatto. Dice ni perché poi sul palco ci salviamo sempre, perché soprattutto ci stiamo divertendo. Però Stefano è rischioso, lui, sono d'accordo con te, tu sei uno che vorrebbe subito estrapolare le sue cose, le sue idee, però è rischioso perché se la band ha una certa fisionomia, c'è una certa un certo percorso, sconvolge questo percorso può essere anche... Ma lui ha super ragione. Okay. Il problema è che a volte... Marco, che dimmi. Marco il Castellisa, in che posizione sei te fra Massimo e Stefano? Poi c'è l'altro Stefano che poi facciamo parlare anche lui. Che domanda. Di la verità, se no ti uccido. No, noi, perché la gente deve sapere che non è semplice fare una band. Ci sono tanti, tanti motivi. Il gruppo e l'accordo fra tutti è una cosa meravigliosa, però è difficile poi condensare ogni momento per tirare fuori una canzone. Certo. Soprattutto dire, su un brano nuovo, comunque ognuno ha i suoi tempi. Certo. Detto in maniera buona. Sì, ecco. Sì, ha i suoi tempi, giustamente. E praticamente io non avrei problemi per lanciarla. Un piccolo assaggio, comunque dovete si parla di un punto di accordo. Dovete sapere però che io e Marco, quando abbiamo iniziato, ci siamo lanciati da dilettanti proprio allo sbaraglio. Noi pensavamo di essere i numeri uno, invece naturalmente lo pensiamo ancora, però so per certo, ed era giusto così, hanno riso tanto alle nostre spalle. Però abbiamo donato un sorriso e quindi siamo contenti alla fine. Quindi noi ci lanciamo sempre. Capiamo Massimo, ha ragione lui. Però tra la ragione e la follia, sai. Sì, c'è poca differenza. Sì, esatto. Esattamente. E il nostro Stefano cosa dice? Che parla poco, ma quando parla... Guarda, si potrebbe anche fare. Anche te sei di quel parere di provare una, subito. Una provetta in più magari prima del concerto non sarebbe una brutta idea. Beh, troverete sicuramente una soluzione. Adesso domenica sera bisogna. Esatto. Cosa facciamo, Agostino? Un altro pezzo dall'album? Cosa sì, dici? Sì, io però prima di fare il suonare volevo aprire una piccola parentesi perché mi sta molto a cuore. Ho scoperto che venerdì prossimo sarete ad un concerto molto particolare a Conselve per un anniversario triste. Di un carissimo amico, anzi il figlio di un mio carissimo amico, e io spero che Valentina magari sia all'ascolto, e so che sarete lì a suonare a ricordare questo Daniele, insomma. Sì, allora, precisamente io canterò, perché comunque la serata ci saranno le canzoni dei Pink Floyd, uh-huh, fatte da A Teacher, che è una cover band, dove Valentina suona, canta. Una meravigliosa voce, tra l'altro. e quindi la invito già in radio che dovrà fare un duetto con noi sul disco, glielo dico già in diretta. E ha invitato me perché io sono stato il suo insegnante di danza e per un certo periodo anche il suo fratello maggiore. E quindi siamo molto legati, poi per incomprensioni varie ci siamo persi di vista e purtroppo ci siamo rivisti al suo ultimo saluto. Certo. E questo mi pesa un po'. Io ne approfitto per salutare Pino, ovviamente, insomma, e la moglie, insomma. Ciao Pino, ciao Emiliana. Ciao Emiliana. E ciao anche a Valentina, ovviamente. Che... Ovviamente gli Open Liberty saranno ovviamente a vederci e a partecipare. Per problemi. Esatto, io sarò uno degli ospiti. Sì, avevano invitato anche me, ma purtroppo siamo qui in radio a fare il nostro lavoro di speaker e se no sarei veramente venuto con il cuore, ma più che volentieri, insomma. Va bene, chiusa questa parentesi, e che vi fa veramente onore, soprattutto a te Stefano, vi fa onore di partecipare, di avere questo ricordo per Daniele. Adesso però l'onore è mio. Certo, immagino. Ti ascoltiamo qualcosa dal vivo adesso. Sì, volete suonare dal vivo o sentiamo qualcosa dal disco? Suoniamo dal vivo, dopo il disco facciamo sentire dopo. Allora. Ok, che cosa dal vivo? Sì, la canzone si intitola Joy, è diametralmente opposta all'argomento che stavamo parlando prima. Ora. Mm. Per fortuna ci sono anche la gioia e la nascita. Certo. Parla espressamente di Vittoria, la mia nipotina che saluto, che spero mi stia ascoltando. E parla della nascita di una bambina come di un regalo inaspettato che ti cambia la vita e la visione che si ha di essa. Fare parte della sua crescita, come sono io lo zio, certo, costante e veloce, ti fa imparare tante cose, ti fa ondeggiare tra la poesia e la realtà. Ok, ok. With no pain, I'm writing it down in this moment, this song. And I'm thinking about you so deeply. In this moment, I'm writing for you. And my heart is about to burst, cause you give me joy. You are my joy, an aspect and give. You are like a poem's verse, you make me fly over my work. The world becomes a perfect place. Unexpected gift was your arrival in this world. I did not believe anything, I wasn't even able to cry. You break down away the ace that won by bringing me so long. I keep singing the songs for you, and my heart is about to burst, cause you give me joy. You are my joy, an aspect to give. You are like a poem's verse, you make me fly over my words, and the world becomes a perfect place. An unexpected gift, it comes with a special rhythm. It suddenly dances bringing time with your eyes. Dance to reality. You are like a poem's verse. You make me fly. Over my world become a perfect place. Sì, fino all'ultimo secondo, perché la nota deve finire. Bello, a me è piaciuta anche questa, un'altra ballada romantica. Volevo sottolineare una cosa: il sudore di Stefano quando canta è una cosa molto positiva e butta via i fogli per terra come una rock star, veramente. Proprio una rock star butta via i fogli per terra, no, per il punto di vista proprio della confusione, però proprio una rock star butta via i fogli. L'importante è che lo butti via la chitarra. No, assolutamente. Proprio il sudore del cantante, è bello questo, fa parte proprio del pathos, e io lo trovo positivo. E poi ho visto Marco è proprio un metronomo, dà l'input a tutti quanti in modo proprio categorico, ragazzi, ma nel senso positivo, tutto funziona perfettamente. Essere dentro nel cuore, nella fossa di leoni, come sono io, come spesso capita, è bello, è positivo, è come suonassi anch'io, io la sento così. So, ragazzi, se siete d'accordo. È la tua passione? È la nostra passione, sì. Io ed Agostino, la nostra radio, da passione, perché la musica dà passione. E stasera stiamo appassionando, secondo me, la gente che ci ascolta. Perché date, speriamo, tutto, quindi date la carica. Riusciamo a trasmettere? Secondo me sì, date la carica. Bene. Che ripetere i pezzi in acustico non è semplice, è difficile. Uno che c'ha la batteria che dà una propulsione ritmica. È difficile dare la carica all'acustico. Anche l'acustico è difficile. Anche perché ci tengo a dire che adesso le canzoni in acustico sembrano comunque tutte ballad, in realtà sono ballad che sul disco e dal vivo hanno molta energia, molte chitarre, soprattutto dal vivo. Sì, non c'è la chitarra elettrica, sì, stasera c'è una scelta di Massimo, potevi portare la chitarra elettrica allora. Ma no, è una scelta proprio così, avete deciso, abbiamo deciso, anche perché poi potrebbe essere anche un'idea futura di fare qualche seratina in acustico, e quindi ci mettiamo in gioco. Ci siamo, esatto. Allora Attilio porta un top. Sai che Attilio porterà poi la batteria. Un top piccolo. Esatto, sì. Certo. No, stavo dicendo, sai che non è la prima volta che una band che passa per questa emittente dice proprio le stesse cose che avete detto voi. Noi ci siamo messi in gioco perché è la prima volta che facciamo un acustico, però è una bella idea. Ci stiamo pensando addirittura di fare anche un disco in acustico. Ti ricordi, per esempio, sì, Maurizio, sì, i Teodosia? Sì, Teodosia, esatto. Per esempio, ma ce ne sono, sì, tante. Sono tante altre, sì. Perché l'acustico è difficile, ripeto, quando si sbaglia in acustico si sbaglia veramente. Quando si sbaglia in elettrico si sbaglia un pochino meno, perché c'è sempre qualche possibilità di nascondere. È una verità sacrosanta, non lo dico io che non sono un musicista, però è così, c'è poco da fare. Sante parole. Quanti soldi ti ha dato? Nessuno. guarda, ho già ordinato un nuovo impianto per la band. Metterò la firma io, praticamente. Esatto. Allora, vi ricordo che questa è Blu Radio Veneto, la vostra emittente preferita in questo preciso istante. Questa è la voce di Agostino Spolaore, che assieme a Maurizio Calzavara stiamo cercando, insomma, di regalarvi la musica di questa band dalla provincia di Padova, da Monselice o giù di là. Insomma, sono gli Open Liberty che ci sono venuti a presentare il loro disco, che si intitola intitola Odissei. E che dire, vi ricordo sempre il nostro numero telefonico in studio è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli sms vi ricordo il 346 23 20 033, lo ripeto 346 23 20 033. Ok, cosa dice Agostino? Un pezzo adesso da facciamo disco? Riposare un secondo, un pezzo da disco. Che traccia avete scelto, Stefano? Che cosa hai scelto? Che avete scelto, Marco? I Live. Ah, ok. Ce la spieghi un secondo? I Live è una storia particolare. I Live è la nostra prima canzone, diciamo, mia e di Marco. Il nostro sogno era di fare una canzone in studio di registrazione e di fare un video ufficiale. E poi ci ritiravamo. In realtà ci siamo divertiti troppo. Sul video abbiamo calcato la mano perché è un po' forte, che parla, la canzone parla di una persona che ha dei contrasti in famiglia, se ne va da casa e si reinventa. Sul video, insieme col regista, il sceneggiatore, siamo andati a Milano quella volta, dovevamo fare le cose alla grande. E si è parlato di un omicidio-suicidio, della droga, del padre che si drogava, il figlio che lo uccide e poi comincia a drogarsi e si suicida. Poi una cosa forte che è stata capita e non capita, però noi ci sentavamo di dire questa cosa. Di trasmettere questa cosa. Anche perché io il lavoro che faccio io è guidare l'ambulanza, quindi credo di essere credibile, di aver visto delle cose brutte. E quindi non vedo poi le critiche. Sei entrato nel problema, sicuramente. Sono entrato nel problema perché ho già visto le scene, mi hanno colpito e la musica deve esprimere quello che vivi. Certo. Non essere falsa come fan. Non essere falsa, chiudiamola. Sono polemico, scusate. Allora, ci ascoltiamo I Live. Down on the cloud, I was thinking over a new life and a new world, and it's opening around me. I'm sad and a bit lost, but not uncertain. I'm going around with my head held high. I have my home dignity, my life and I. Doesn't want us anymore. Every day, every night. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Anche questa è quasi una ballata, se vogliamo, I Live, Stefano? Cosa dici, Stefano? Sì, leggermente, non dico acustica, però, insomma, non proprio mossa come qualche altra. Era molto più pop, proprio perché l'avevamo prodotta io e Marco insieme a Simone Cerchiaro. Che citiamo, che risalutiamo. Mm. Ancora. Che farà parte ancora del nuovo disco come produttore oppure no? Sì, beh, certamente. Diciamo che eravamo alla ricerca del nostro sound. Mm. E quindi se uno sente tutto il disco, sente la differenza sostanziale, la crescita. E dal vivo chiaramente queste cose sono ben più accentuate. Ovviamente poi con l'arrivo dei musicisti, quindi con un confronto quotidiano, credo che si senta proprio evidente la differenza. Possiamo dire che Odyssey è il vostro greatest hits, cioè l'inizio del percorso, possiamo dire questo? Sì, certamente. Che poi si svilupperà col nuovo disco. Esatto, anche perché noi concepiamo il disco non con tre canzoni forti e gli altri riempitivi. Esatto. E cerchiamo come spesso di fare capita. Tutte le canzoni forti, anzi, il nostro intento è questo. E poi vedremo. Sarà il pubblico poi a giudicare. Ovviamente, per fortuna ci sono anche i gusti del pubblico. Certo, certo, è fondamentale. Agostino, facciamo la solita domandina. Lo so che ti sì, che mi piace. Di solito noi facciamo al mercoledì anche il Rock Wave. Mercoledì è il giorno prefissato del Rock Wave. Però ormai il rock ha invaso tutta la programmazione, in senso positivo. Facciamo questa domanda che so che Agostino vi... La puoi fare anche tu. Falla a te, visto che l'ho creata io tanti anni fa con Alberto Pisco, però puoi farla a te. Vabbè, la faccio ufficialmente? La fai ufficialmente, vediamo le facce allora, dei nostri colleghi. La giriamo un po', la ammorbidiamo un pochino. Sì, certo. No, allora, quando siete nella vostra intimità, diciamo così, cosa ascoltate? Un'isola di musica, deserta. Oppure, se andate in un'isola deserta, cosa vi portereste come dischi? Insomma, tre a testa. Assolutamente non da copiare. Chi che parla? Avete 10 secondi a testa. Sì. Allora, no, partite voi perché di cultura sono negato. Potrei dire una raccolta dei Pink Floyd. Va bene. Tipo? Sta ridendo Chiara. Dark Side of the Moon. Una raccolta o un disco ufficiale? Ma adesso sinceramente ho ascoltato una raccolta che ho comprato recentemente sì. Sì, che è in cartoncino, sì. Non è neanche stato curato più di tanto, però non ricordo il nome del titolo, non è una raccolta. Però è completa. È completa. Back in Black degli AC/DC. Adesso ci fermiamo un secondo. Come mai Back in Black è il disco più importante, più famoso, più venduto di AC/DC? Eccoli qua. No, questi sono i Pink Floyd. Però arriveranno anche forse gli AC/DC più tardi. Dimmi. Ma io l'hai visto dal vivo? L'avete visto? No, purtroppo ti è sfuggito. No. Il grande chitarrista, lui sempre con le mani, sempre con le braghette corte, io come so, un giovincello. Muove la testa su e giù. Muove la testa su e giù da 40 anni. Ecco, muove la testa su e giù. Ma io li ho scoperti proprio con quest'album, per cui non pensavo facessero un genere così. Ero un po' ignorante all'epoca. E quando l'ho sentito per la prima volta, ho detto: caspita, ma non pensavo fosse così. E non hanno mica cambiato tanto, eh? No. Sono rimasti sempre loro. Addirittura. Non so, in un'intervista gli hanno detto che loro hanno fatto 12 album tutti uguali, sì. E Angus Young gli ha risposto: no, in realtà sono 13. Quindi è spiritoso. Esatto. Ma quello, il loro sound, la loro caratteristica, quella c'è poco da fare. Però il loro sound ha trasmesso una carica a tantissima gente. Sono famosissimi tutti. Il nome dice tutto. Esatto. AC/DC già dici il marchio. Esatto. Poi sì, abbiamo detto Pink Floyd, AC/DC, poi il terzo. Un altro c'è un imbarazzo qui perché veramente. Ricordate, ragazzi, che non potete copiare la regola ferrea. Quindi il più fortunato è lui perché lui ha cominciato per primo. Non saprei, a pari merito. Posso metterli a pari merito? Dai, metti a pari merito. Un album, una raccolta dei Queen, ok? E potrei mettere anche un greatest hits dei Guns N' Roses. Giochi sempre nelle raccolte, te sei furbo. Sì, così, raccolte. Insomma, un po' di tutto. Eccoli. Sono una passione sfrenata di Agostino e Queen. Beh, insomma, sfrenata. Mi piacciono parecchio, insomma, sì. Notare comunque fai bene. Tutti gli album dove c'è la chitarra che Brian May fa qualcosa. Brian May Dossett. Marco, tocca a te, dai, visto che sei più vicino a... Ma un po' difficile, nel beh, senso solo tre che fai di... presto, dai. Io culturalmente e musicalmente ma sono negatissimo. No, fai conto esatto. Che sei a casa e dici adesso voglio ascoltare musica, cosa ascolti? Quello che vuoi. Cosa ti piace ascoltare, quantomeno? Diciamo che uno dei miei idoli è Michael Jackson. Mm. Wow. E non si parla di poco, insomma. No, infatti. E ultimamente sto riscoprendo un po' i Bon Jovi, gli stessi Queen. E... cos'altro? Cioè, facciamo Bon Jovi. Qualche raccolta mista, diciamo. Un po' di tutto. Un po' di tutto, sì. E... però spaziando anche magari a Zucchero, altri generi magari un po' diversi rispetto al rock. Quindi non assolutamente, cioè un po' più ampio il discorso. Sì, sì, sì. Non sì, prefissato sì. Come ha detto Massimo. No. No, un po' diciamo più allargato. Ci sono vari generi, non ce n'è uno che piace. Eccolo. Eccolo qua, Michael. Stefano, tocca a te, lì davanti al microfono vai. Beh, diciamo che io come dischi neanch'io sono molto... ferrato, però come già nel momento nell'iPod diciamo un po' di tutto dai dagli e purtroppo c'è l'iPod adesso, ai nostri tempi non c'era questi no, non mi tengo le raccolte, metto solo le canzoni che magari mi piacciono di più e ma cosa ti piace di più adesso in questo momento? Esatto, questa ti piace. Questa è una delle mie preferite. Vedi? È un pezzo strepitoso. Oppure gli U2, mi piace The Joshua Tree, quello bellissimo. Un album molto. Sì. Penso sia uno dei più belli. I più belli loro, sì. Secondo me, io personalmente lo giudico il più bello che hanno fatto, però chiaramente fa tanti belli. Sì, dopo anch'io CDC, Guns N' Roses. Ecco. Quando senti un pezzo simile, dipende, non puoi anche dire molto, che no, molto dallo non stato. Puoi non, dire, non puoi neanche fermarti. No, di Queen. Dipende anche molto dallo momento, stato d'animo, certo. da quello in quel momento voglio ascoltare, da cosa ho bisogno. Certo. E Stefano, che cosa ha bisogno? Visto che è il nostro frontman, il cantante. Il cantante è sempre di solito. Fa delle scelte un po' diverse dagli altri della band. Qua è dura. Perché l'ultimo anche purtroppo quello discorso. No, i dischi che mi hanno segnato sono tutti i dischi dei Beatles in particolare. Tu che hai fatto una cover band dei Beatles? No, è Marco. È Marco, io partecipavi. Fortunatamente non ho fatto cover band. Però era una mica brutta cosa fare una cover band dei Beatles. Uno dei pochi. A me piace un sacco il White Album dei Beatles, il momento del contrasto. Se qualcuno dice queste uova strapazzate, queste uova strapazzate come detto. Sì, quando ha fatto Yesterday lui doveva chiamare uova strapazzate. Sì, se l'era sognata quella volta. Se l'era sognata, esattamente. Però giustamente tu hai citato White Album, molti critici hanno scritto è migliore il Sgt. Pepper, perché nel White Album c'è di tutto. Non ho ragione. Anche se la Bibbia del rock è stata definita guai. Sono usciti dagli schemi. Esatto. E prima era solo Lennon McCartney e poi è uscito un grande musicista come George Harrison. Esatto. E qualcosina l'ha fatto anche Ringo Starr, qualcosa. Sì, sì, era caratteristico nelle sue imperfezioni, ha dato un sound. La batteria che faceva Ringo Starr doveva essere quella. Quella c'era. Sì, non poteva mettere un'altra batteria con i Super Tom. Non è mica semplice suonare come Ringo, sembra semplice, ma non è affatto semplice. I pezzi dei Beatles anche sembrano semplici, ma non sono assolutamente semplici, molto complicati. No, infatti. E poi, abbiamo citato gli U2 o U2. E mi piace un sacco, a parte gli anni 80 con Joshua Tree, Red and Am, Unforgettable Fire. Red and Am è un disco dal vivo, sì, metà, esatto, il famoso disco doppio in vinile. Diciamo, li ho ammirati molto quando hanno fatto Actum Baby, perché hanno cambiato il loro sound di successo, hanno spiazzato tutto, e sono stati bravi, in cose più metalliche. Qualcuno dice, sono coraggiosi, grazie, visto che è successo il precedente. Beh, sono ovvio, stati coraggiosi. Sì, beh, ovvio. Poi avevano dei grandi produttori, Brian Eno, tutta quella gente Brian là. Eno è... grazie. Esattamente. E ti faccio una domanda e dopo finiamo. Cosa ne pensi della versione di Johnny Cash di One? Te la ricordi la versione di Johnny Cash? Sì, ma io sono purtroppo io ho un po' di avversione sulle cover, magari nel senso sì, gli artisti di assoluto valore, ma io sono sempre legato. Sono d'accordo con te, però lo stesso Bono ha detto che Johnny Cash l'ha fatto meglio di me. Se l'ha detto Bono. Sì, però se tu ascolti One di Johnny Cash è un altro mondo, è una cosa meravigliosa. Johnny Cash io ho qualcosina a casa,

na na na na na na na na na na na na na na. If you only knew that when I wake up, only throw the lights up, my day is you. I like to reach you down there. I like to reach you down there in Wonderland. Beh, dobbiamo aspettare fino alla fine. A me sono piaciuti una cosa, i controcanti tra Marco e Stefano, molto interessanti. Stefano ha una voce un po' più bassa, Marco ha una voce un po' più alta, e controponeva tra il basso e l'alto, non è così? È una cosa bella, interessante, non, anche studiata musicalmente. È divertentissimo. È divertentissimo. E fra poco dal vivo tutti quanti, sarà una nostra nuova frontiera fare anche i cori a cappella senza musica dal vivo. Ah, bello, interessante. Come mai l'idea di fare i cori a cappella senza musica dal vivo? Perché cantare è musica, e perché vogliamo fare un concerto che sia pieno di sorprese. Pieno di sorprese. Molto vario. Molto vario, perché la gente non vogliamo che sbadigli, ma canti, balli e sogni insieme a noi. Possiamo dire che questo era un pezzo pop, siete d'accordo? Nel senso buono del termine, sì, come pop. Sì, sì, sì, sì. Molto pop. Massimo, cosa dici? Sì, sì, sì, è giustissimo. Stefano, cosa dici te? Assolutamente d'accordo. Bene, siamo tutti d'accordo. Grande Stefano. Pop, quindi, che ci stava dentro, abbastanza semplice. Semplice, non semplice perché era semplice. Semplice perché si prendeva immediatamente, esatto. Riusciva ad entrare immediatamente. Come vi proponete nei vari vostri concerti? Ma ci proponiamo intanto in cinque. È ovvio che manca Attilio, sì, certo. No, no, ma voglio dire, come costruite le vostre canzoni, insomma. Sì, noi le proponiamo dal vivo, cerchiamo di studiare un po' la scaletta, cercando di alternare i pezzi ovviamente veloci a quelli un po' più lenti, ma in realtà non ne abbiamo proprio tantissimi di lenti, sono tutti molto ritmati e potenti in realtà, quindi c'è il giusto mix, quello che cercavamo noi, di non essere né troppo duri né troppo morbidi. E credo che un po' alla volta ci stiamo riuscendo, è ancora lunga in realtà, la perfezione non esiste, però noi cerchiamo di migliorare, questo è il nostro obiettivo, insomma. E il rapporto invece con i vostri, tra virgolette, fans, com'è? Sempre meglio. Sempre meglio. Diciamo che è bello vedere persone che non rispondono mai agli inviti, che ultimamente li vedo, che battono un po' la testa e quindi speriamo che la battino avanti e non ai lati, perché vuol dire che forse non gli piace ai lati. Spesso e volentieri abbiamo fatto questa domanda ad altre band, adesso ve la faccio anche a voi. Avete difficoltà a trovare delle zone, dei momenti, delle date per suonare le cose vostre? Perché sapete, il discorso delle cover band o delle tribute band. Dici no, Marco, te? Per adesso no. Per ora siete fortunati, allora. Per ora è andata bene. Forse oltre alle aspettative. E a quanto pare continua. Sembra che possa continuare con questa. Con questa. Sì. Bisogna martellare a manetta. Cioè vuol dire farsi vedere in continuazione dappertutto. Esatto. Più che altro bisogna farsi vedere un po' convinti. Più convinti. Perché. Sì. Ci sono stati dei mesi in cui avevamo ogni sabato o domenica impegnati. Un concerto da fare. Un concerto a settimana. È una cosa positiva. Sì. Molto. Come fate? Avete qualcuno che vi dà una mano a distribuire, non so, qualche volantino, eccetera? Una volta si faceva così? No. Tutto fai da te per tutto ora. Tutto fai da te. Grazie a internet. Si tira sulle maniche. No, internet un po' meno. No. Diciamo che i manifesti non si attaccano con internet. Cartellonistica in generale. Esatto. Ho capito, cioè vi date da fare tutti quanti. Ognuno ha un proprio ruolo, giusto? Però comunque riuscite a avere diverse date personali. Sì, hanno detto di sì, sì, chiaramente. 27 in 10 mesi. Abbastanza, insomma. Buono. Non è poco. Tanto per dire la verità. Adesso, oltre a quello che abbiamo citato prima, abbiamo altri due concerti citati, poi cosa abbiamo, Massimo? sì, abbiamo il lunedì a Conselve, abbiamo il primo settembre, se non sbaglio, vero, a Battaglia, a Battaglia Terme, al chiosco Valle Verde. Valle Verde in zona Cava. Esatto. In zona Cava. Fate un concerto anche a Abano Montecrotto in mezzo al verde. E poi abbiamo sabato 8 settembre ad Abano alla Notte Rosa. E il 15 settembre c'è il gusto dello sport in una bellissima piazzetta Buio a Monte Ortone. Ringrazio Adriana Graziano che crede molto in noi, e merito suo, queste due date sono merito suo, quindi la ringrazio e la saluto. Se ci sta ascoltando, la salutiamo anche noi di Blu Radio Veneto, ovviamente. Benissimo, sono le 22:23, abbiamo ancora tempo. Facciamo sentire finalmente un pezzo da disco, così vi riposate un secondo. Che traccia ti ricordi, Stefano, che hai scelto? Te li ricordi? Sì? La Saturno 13, ma... Jack Loneliness. Vuoi spiegare un momentino? Sì, potenza. Jack Loneliness intanto è potenza, la nostra potenza. E parla di Jack Bauer, che è l'agente antiterrorismo della serie TV americana 24. Esatto. Io ci ho perso la testa a vedere tutte le puntate. Anch'io confesso. Sai che la stanno rifacendo adesso, Sì, sì, sì. Beh, io ho i DVD. Ah! Bene. Tanto per farmi vedere. E quello che mi ha colpito, a parte il pathos incredibile che generava in me, mi ha colpito tanto il fatto che lui era invincibile e anche e tanto solo. Mi ha colpito l'aspetto di solitario, infatti io ho cambiato il cognome ed è Jack Loneliness, che vuol dire solitario, no? Solitario, esatto. E lui salva l'America nel famoso ogni puntata 24 ore, e però l'ultima ho immaginato che lui sparisca verso l'orizzonte alla ricerca della sua felicità, visto che dov'è lui genera morte, tutti quelli che lo amano muoiono. Era un continuo colpo di scena. Sì, era una cosa fuori da ogni norma. Cioè, io impazzito. E quindi e abbiamo scritto la canzone. Mi passerai i DVD allora. Ecco, anche a me. Non dormi neanche la notte. Ascoltiamo allora Jack Loneliness. Yeah. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qua, sono le 22:28 in questo preciso istante, sarebbe quasi l'ora di chiudere, ma invece siamo ancora qui. No, stasera andiamo un po' più avanti, stasera, visto che il nostro collega Renato è in ferie, quindi abbiamo ti prendiamo un po' di spazio. Vogliamo parlare di questo pezzo. Massimo ha detto a microfono spento, Agostino, Iron Maiden, quindi metallari. Come mai Massimo? Questo sì, da solo. Vuol dire, da solo è importante, ma in questo anche paese. In questo brano, come su Psy, da solo è l'urlo, l'esplosione. Sì, la liberazione da questo telefilm un po' così. Io non ho mai visto neanche uno dei telefilm. Male? Lo sai, io non sono amante dei telefilm americani. Voi, giustamente, io era uno dei pochi telefilm che mi è piaciuto tantissimo. Non ne ho visto neanche uno, ma neanche i precedenti. Ma poi, tra l'altro, l'ho beccato per caso perché lo facevano alle 11 di sera su Rete 4. Quindi la sofferenza. Sofferenza. Poi, sai, questo era poi concepito anche in una maniera bella, perché c'era sempre questo orologio che scandiva il tempo. Sì, ma in realtà era fatto, ho letto, era fatto per lanciare la famosa pubblicità. Ah, cioè? Ogni volta che veniva fuori il famoso orologio digitale con non lo sapevo. Esatto, era molto una roba molto astuta. In realtà è concepita per lanciare la pubblicità ogni tot. Ah, ogni tot. Gli americani sono bravi a fare queste robe. Furbati. Sì. Non solo gli americani. Esatto. Quindi, ma il pezzo, io voglio capire il perché di questo pezzo molto movimentato, decisamente. Chiudo movimentato. La parentesi solo per dire che l'attore era Kiefer Sutherland. Grandioso. Bravo Agostino, bravo. Ciao Kiefer. Complimenti. Ritornando al pezzo, come l'avete strutturato? Al di là, Stefano ha praticamente immagazzinato nel suo cervello ogni sequenza di questo telefilm americano. Musicalmente è un pezzo molto molto mosso, molto movimentato, volutamente. Doveva essere una chiave di lettura anche per questo. È perfetta per le scene. Adesso si è seduto Stefano, non vi preoccupate, dopo un po' di tempo la custodia della chitarra. Bella rigida. Esattamente. Sì, e la parte musicale è costruita perfettamente sul significato delle parole e su quello che io volevo dire, perché il film è veramente mozzafiato. Io credo che questa canzone in 3 minuti sia mozzafiato. Poteva essere anche un L'intenzione almeno era quella. Poteva essere anche un pezzo punk. L'idea poteva essere anche punk. Voi dite, ma perché un pezzo punk? Perché il pezzo punk è da 3 minuti e via, tac, immediatamente. No, è un'idea mia. Forse non ha la stessa adrenalina. I punk che sono tremendi, eh. I Bon Ramones, che sono un gruppo straordinario, in 2 minuti e 50 sconvolgevano un po' tutto. Ma io ho un bellissimo problema. Dimmi. Ho dei musicisti che non si fermano a 3 note e la ripetizione di 3 note. Sono d'accordo con te. Loro sono così. Sono che punk a 3 note, però l'energia di punk in 3 note. Sì, sì, no. Non voglio contestare il punk con la musica. E per la conformazione della band. Erano bravissimi, Ramon. Certo. Paz Menetteri è la canzone che mi gusta di più. Vedi, anche l'isola deserta, che Ramon potrebbe starci, sì. E che hanno avuto molto poco, tra l'altro, dal movimento punk in termini di successo e soldi. Sì. Sono passati i capostipiti, no? E sono stati i capostipiti, però come sempre hanno guadagnato gli altri. Sono partiti i Sex Pistols. Nevermind the Bollo e altre cose. Facciamo i Clash, ragazzi. Non dimentichiamo i Clash, un gruppo straordinario. Certo. Ritornando a questo pezzo, quindi movimentato, volutamente movimentato, perché il testo doveva essere così. E il finale, questa chitarra che esplode. E tu hai questa chitarra che esplode, c'è poco da fare. Ecco, ci ha messo su Ramon, giustamente, non poteva essere. Grande. Questa chitarra che esplode, accompagnata dagli altri strumenti, sì, accompagnata dalla voce di Stefano. È fatta poco. No, ma è per quello che ho fatto di no quando hai detto punk, perché una chitarra così nel punk è difficile lo trovare. Lo so, però io intendevo in questo senso. Cioè nella velocità dell'esecuzione. Nella velocità dell'esecuzione. Okay. La straordinaria velocità di esecuzione del punk. Qui chiaramente non è un pezzo da 3 minuti, però 3 minuti è l'indice. Erano 2 minuti e 50, 2 minuti anche, non 3 minuti, anche 1 minuto e 40 qualche volta. I Ramon sono arrivati a qui. però l'esplosione, la forza d'urto, per il punk aveva una forza d'urto, spaccava, e quello è bello nel discorso. Anche voi potete spaccare musicalmente, perché no? Dal vivo si spacca di solito. Si deve spaccare. Si deve spaccare. Si deve spaccare assolutamente. Per trasmettere si deve spaccare. Non c'è Attilio stasera. Per però, trasmettere. Eh beh, Attilio. Attilio è proprio. Lasciamo il suo ruolo sul palco a spaccare lui. Una macchina ritma Attilio oppure no? Sì, sì, sì, sì, sì. Una bella macchina tosta. Ed è anche un batterista molto versatile. Cioè, cosa vuol dire secondo te? Versatile? Perché cioè, puoi essere cambiare facilmente. In ogni pezzo, in ogni occasione, sa adeguarsi, diciamo, a quello che vuol dire il pezzo, ma anche è molto dinamicamente è molto avanti, molto bravo. Sa quando, tra virgolette, battere e quando andare di fino. Perché di solito i stop and go dei batteristi mettono sempre in difficoltà tutta la band. Non so se Stefano sia d'accordo, il nostro bassista, che è sempre empirico, il Fender non può star seduto, sì, chiaramente. No, beh, sono completamente d'accordo, nel senso Attilio è veramente bravo, nel senso sa dosare perfettamente ogni singolo tocco in base alla canzone, al momento, all'ambiente, qualsiasi situazione. E allora nel disco nuovo gli Open Liberty doseranno tutto quanto? Certo. Nella giusta maniera. Nella giusta dosare maniera. Dove bisogna dosare e andare e calcare. E calcare dove bisogna calcare. Esatto. L'intenzione è quella. Non fate sì. Un live con una novità assoluta qua dentro, non ce la fate a fare un pezzo assolutamente inedito che avete già costruito. Lo so che lo dovete provare, però stavolta fate meno di provarlo, lo fate qua dal vivo oppure no? È una idea un po' malsana la mia o molto sei ruffiano. So che sono ruffiano. Massimo. No, io dico, faccio un'ipotesi, perché avevamo parlato di potremmo buttare giù Il perfezionista. Possiamo buttare giù qualche secondo. Dai, proviamo, dai. Qualche secondo. Al limite ci fermiamo. Questo è il modo di sconvolgere. Questa è la musica. Lo so, l'ho fatto apposta io. Lo so, sono cattivo, non cattivo. Sei ruffiano. Perché non sono, insomma, perché è così la musica dal vivo, deve essere così, non deve avere confini. Marco, dai pure i quattro. Vai pure, suonate pure. Prendere chitarra? Sì, è ovvio. 1, 2, 3, 4. It's a beautiful, it's a marvelous day. And it seems that spring has come back inside me. I feel full of energy. Free to fly, always from you. I see you like a perfect stranger. I see in you the darkest night, the only thing that makes me feel good. It's at the door over my past, it's definitely closed. And I don't wanna see you anymore. Thank you. I woke up one day and I understood who you were, where I've been, and that after all everything has changed. I grew up and maybe I only made a mistake. I see you like a perfect stranger. I see in you the darkest night, the only thing that makes me feel good. It's at the door over my past, it's definitely closed, and I don't wanna see you anymore. Ci hai fregato. Vedi che ho fatto bene, ho fatto bene. A proposito, l'ho fatto apposta, l'ho fatto apposta perché io ero sicuro che andava bene. Sottolineo che l'idea base è partita dal nostro batterista Tiglionino. Ah, Tiglio, bello, complimenti ad Poi Tiglio. Abbiamo sviluppato e scritto però. Come nascono appunto le vostre canzoni? Cioè, da chi parte l'idea? È a uno qualsiasi o c'è uno ben preciso addetto a questo tipo di cose? Beh, le due menti pensanti, tra virgolette, perché poi comunque c'è sempre libera scelta a tutti gli altri musicisti della band, e siamo io e Stefano. Uh-huh. Che scrivete i testi? Sì, beh, lui per quanto riguarda i testi, magari qualche indizio musicale, io per quanto riguarda gli accordi, la struttura del brano, e proviamo a buttare giù una bozza o quello che può venire fuori da un'idea sua, da un'idea mia, prevalentemente sua, e vediamo se può girare, se può essere valida come idea, come progetto musicale. Dopodiché la classica base di cui si parlava prima viene proposta magari al gruppo, Massimo, Stefano e Attilio, e ognuno di loro comunque a libera scelta di giostrarsi come si vuole. Posso dire una cosa su questo pezzo? Non so se siete d'accordo. Io ho pensato così. Avevo un inizio molto sinfonico e arrivava in qualche input, nella mia mente girava un input alla Verve. Mi ricordavo qualcosina dei Verve. Sapete quel famoso pezzo che poi... Bittersweet. Esattamente, che è una storia un po' particolare questo pezzo, perché una parte del pezzo è di Holden, cioè di Lee Holden, praticamente il leader di Rolling Stone. Praticamente loro hanno pagato tutti i diritti d'autore ai Rolling Stone, non hanno praticamente guadagnato nulla. Per il campionamento, diciamo. Esattamente, per il campionamento. Non hanno guadagnato assolutamente nulla, perché i diritti andavano tutti al produttore, al primo produttore dei Rolling. Ma al di là di questo, mi ricordate i Verve? Quindi è un pezzo molto anglosassone, secondo me, questo. Molto inglese. Ma nel senso positivo del termine. Io ho questo input, poi chiaramente il pezzo poi... E si è allargato, si è modificato, siete entrati voi, ma all'inizio questo inizio quasi sinfonico da parte di Marco mi ricordava i Verve. Non so se siete d'accordo oppure no. Non è una brutta cosa, non è una cover, non è una scoppiezzatura, è solo un input che a me è venuto in mente. Beh, è un bellissimo complimento, perché i Verve sono un gran gruppo, sì. Poi chiaramente si sono persi, perché il leader, il frontman, ha voluto fare la carriera solista e è finito tutto quanto. Sì. Però quel grande pezzo che gli hanno lanciato tutto il mondo, ma anche un grande album. Era un grande album, il pezzo è spaccava anche dal punto di vista economico, perché non hanno preso una lira. è vero, non è mica una balla, è verissimo. Solo il piccolo campionamento, che è di Holden, che è del produttore dei Rolling, il primo produttore dei Rolling. C'è poco da fare. Agostino, è questa la via del successo? Un successo un po' ridotto per i Verve, però i Verve sono stati lanciati tutto il mondo con questo pezzo. Ritornando, quindi questo inizio che lo sasso, nelle critiche ho letto che voi avete questo avvicinamento alla musica anglosassone. Tu hai parlato dei Beatles prima. È così. Anglosassone nel senso più ampio del termine, chiaramente. Non mi rispondete. Hai centrato bene, cioè è una nostra prerogativa, cioè noi ascoltiamo soprattutto musica inglese e statunitense. Ma più inglese più che inglese, sì, più inglese. Perché qua molti pezzi vostri con le tastiere, non dico che ricordano, però hanno questo marchio di fabbrica che può essere molto anglosassone. Ma non è una roba negativa. È voluto perché è il nostro background musicale. Quindi ascoltiamo, abbiamo degli esempi davanti che ci piacciono e quindi ovviamente noi immagazziniamo questo tipo di suoni, questo modo di approcciare alla scrittura. E questo nuovo pezzo che abbiamo sentito assieme agli ascoltatori che voi avete eseguito, è un pezzo che fa parte del nuovo album, non è la nuova strada degli Open Liberty, oppure è una strada assolutamente acustica, visto che mancava Attilio, che l'ha ideato praticamente, come tu hai detto prima? Ma è una nuova strada, è un pezzo che è un po' differente dagli altri di Odyssey in maniera positiva, nel senso che più costruito, più pensato, sì, più vario. Non è lungo, è abbastanza radiofonico come lunghezza, però dentro c'è un po' di tutto, c'è proprio tutta la band, ognuno ha messo del suo qualcosina ed è nato Like a Perfect Stranger. Perfetto. E io vi porto ancora un saluto, dice: siete davvero bravi e meritate di essere conosciuti, grazie della vostra stima che contraccambio con simpatia, complimenti a Blu Radio per la trasmissione. Dare spazio alla musica e a chi la compone non è da tutti, la musica è vita. Ciao Open Liberty, a presto. Adriana, eccola qua. Ciao Adriana, grazie. Ciao Adriana, è quella che abbiamo salutato prima, giusto? Certo. Ciao Adriana, magari ci verrà a trovare anche lei una volta, chissà. Io volevo chiedervi com'è la vita all'interno della vostra band, cioè che rapporto c'è tra di voi, insomma, solo una parte, diciamo un rapporto musicale, o c'è anche proprio una profonda amicizia, insomma? Beh, ci conosciamo credo da un anno a sta parte, qua un anno e... ci siamo visti la prima volta il 19 luglio del 2011. Quindi diciamo che ci siamo conosciuti per un motivo musicale principalmente. Però durante questo cammino abbiamo fatto delle esperienze positive, divertenti, e quindi possiamo definirci amici, credo. Se no... Che sguardo! Stai attento. Usi i termini giusti. Sì, è vero. Colleghi. Non possiamo essere colleghi. No, non è un lavoro. Una band deve essere... Stiamo divertendo e basta. Comunque tutti hanno la stessa percentuale di parola, insomma. Sì, beh, spero bene. Beh... ovviamente continua a guardare Stefano perché io sono arrivato per ultimo, però nemmeno te, spero, da quello che ho visto, diciamo che quello che dico mi ascoltano, quindi io sono contento. Cioè, ognuno ha già i limiti, ognuno che dice vale uguale, diciamo. C'è democrazia, insomma, praticamente. Dopo ovviamente se qualche litigio qualche disaccordo a livello musicale, dopo infine anche ci perché sono. Ognuno nel gruppo ha il suo ruolo, c'è il politico, c'è il pacifista, c'è lanciato, l'esaltato, c'è quello che gli va bene tutto. Grazie Marco dell'esaltato. Grazie. Allora, diciamo che io e Marco siamo molto ovviamente più legati perché è da 4-5 anni quasi che ci conosciamo, c'è una conoscenza più profonda, e ne abbiamo vissute di cotte e di crude proprio perché siamo partiti da zero. Che noi ridere. Con Massimo, Attilio, adesso Stefano, sì, amici è una parola fortissima. E, diciamo che andiamo molto d'accordo e stiamo imparando ad essere amici con molto entusiasmo, ovviamente, perché comunque ci vorranno degli anni per definirci. Ho capito quello che vuol dire Massimo, però ogni tanto sono preciso e quindi stiamo imparando a diventare amici. Fai il perfezionista tu adesso, questo sì, questo, nei rapporti umani sì. Sì, beh, era quello. No, che... beh, sì, hai ragione comunque. Certo. E faccio una domanda un po' particolare. L'ingresso di Stefano, ho letto nelle note, che ha permesso a voi di continuare a suonare, quindi è una cosa importante. Che apporto ha dato Stefano? Stefano è un bassista, il bassista è una band fondamentale, e senza il basso non si crea una band. Con che caratteristiche è entrato lui? Che cosa vi ha dato nella costruzione dei pezzi stessi praticamente? Non facciamo rispondere a lui, facciamo rispondere a voi. Ma Stefano entra nella band in un momento un po' cruciale perché abbiamo perso il nostro bassista, il nostro bassista precedente, sì, che è Filippo Tofanin, che saluto. Lui ha suonato i pezzi di basso in maniera magistrale il disco, ci tengo a dirlo e a ringraziarlo per il suo apporto. Per vari motivi non abbiamo più potuto continuare la nostra esperienza e in quel momento entra Stefano che ci porta la sfrontatezza della sua giovinezza. Certo, un grande entusiasmo e voglia di imparare, perché non ha iniziato da tantissimo a suonare, però ci ha portato qualcosa di nuovo e in Perfect Strangers si sente. Già qualcosa di suo. Certo, diciamo. Certo. Se mi permettete un'intrusione, Maurizio, ti ricordi che abbiamo parlato di un quartetto, giusto? E sì. Quando c'è stato l'ingresso di Red Canzian dei Pooh, sì, come bassista, appunto, certo, e Facchinetti ha detto più o meno le tue stesse parole, Stefano. Ha detto che ha portato una ventata di novità e si sono fidati molto di questo nuovo bassista. Infatti, poi. Sì, perché poi a un certo punto devi fidarti, le sensazioni erano positive anche prima di sentirlo suonare, certo, e quindi ci siamo lanciati con entusiasmo e i risultati sono dalla nostra parte. Sì, indubbiamente, a proposito di Ray Canzian è entrato al posto di Riccardo Fogli, che era il bello della band, cioè il gossip vivente. Riccardo Fogli era un grande bassista, però c'è poco da dire, è vero, sì, Agostino, certo, era bravo a suonare certo, il basso. Certo. E Red Canzian aveva un altro modo, faceva parte del gruppo prog, quindi aveva un altro modo di suonare il basso, però si è inserito. Io non so, Stefano, che trascorsi musicali tu abbia, però chiaramente ti sei inserito bene, perché non è semplice inserirsi in una band nuova, poi sei giovane. Io, diciamo, sono arrivato a febbraio più o meno, e dopo tre prove mi hanno detto: va bene, ascolta, te la sentiresti di suonare domani sera? Sale sul palco. E tu hai detto, e sì, io ho detto: beh, se proviamo, voi vi fidate, io, per me va benissimo. E quindi sei stato bravo. Io sono andato e da via. Lì un po' alla volta ho iniziato a impararle un po' tutte, perché, cioè, capite bene, in tre prove non posso impararmi, certo, 10 canzoni. Certo, certo. E poi hai la maglietta della band, nessuno c'è davanti. Esatto. Solo tu. È un ruffiano qua in questo caso, sì, sì, perché sì, sono arrabbiato con lui. Sì, perché esatto, per sì, voi dovevate indossare anche voi la maglietta della band, scusa. Se c'era Stefano. Ma non si vede, ma noi ce l'abbiamo la maglietta addosso, non si vede. Ah, non si vede. Okay, non si vede. Cioè, non è che adesso ce l'ha solo Stefano. Non si vede la maglietta, però si sente la musica degli Open Liberty. Cosa, certo, ci fate ascoltare? E questo è l'importante. Quello. Cosa di ci fate ascoltare? Della maglietta. Un altro pezzo a cui tengo tanto, dedicato a Daniele, e che si chiama The Life Dance Floor. E l'avete dedicato proprio a Daniele? Sì, sì, è scritto principalmente per lui e... lo saluto e saluto i suoi genitori e anche la sorella. Dance floor, there has been a time when our paths met on the field, like an elder brother, where each anguish and each fear found its land. How many hours did we talk over love and excuse? How many times I told you that life is extraordinary, no matter how difficult it can be. Only God knows why we suddenly stop dancing in the life dance floor. No, no, no, no, no love and no prayer will make you come back. Only God knows why we suddenly stop dancing in the life dance floor. In my life dance floor, I stop the time in which the consideration will have to run. I could face it like a recklessness, you stop for a moment, could be brutal for me. How many times have I talked over love and excuse? How many times I love you, well, life is extraordinary. No matter what happens, only God knows why we suddenly stop dancing in the life dance floor. No, no, no, no, no love and no prayer will make you come back. Only God knows why we suddenly stop dancing in the life dance floor. How many times have I talked it over, cry or curse? How many times life will be extraordinary no matter what happens? How many times have I talked it over, cry or curse? How many times life will be extraordinary no matter what happens? How many times have I talking over, cry or curse? How many times life will be extraordinary no matter what happens? Yeah. L'hai cantata con l'intento, con grande sentimento, con grande pathos, vero Stefano? Eh sì, si è sentito anche sì, in due punti. Sì. Si sentiva l'emozione fortissima, insomma, per questa canzone che immagino sia una delle canzoni che tu ami di più, insomma. Sì, sì, in assoluto, per il significato e anche per la struttura di tutto il brano, anche sì, musicalmente, sinceramente. Struttura molto difficile, però sì. Quattro, per la prima volta ho visto cantare quattro voci, è una cosa positiva. E poi questo rincorrersi tra Marco e Stefano, poi aggiunto da Massimo e da Stefano ancora, è una struttura molto difficile, complessa, e quasi a cappella in un momento è stata praticamente. L'hai cantato solo da te. Cioè, sì, senza musica parlavi. A un certo punto sì, c'è stato un momento in cui cantavi senza musica, una cosa molto difficile, secondo me è riuscita molto bene anche a una certa ora di sera, cioè sono quasi le 23 e siamo due ore qui che tiriamo fuori le energie, ma ne avete ancora da vendere. Due ore bellissime, vi ringraziamo. Stefano, ti leggo due parole che ho trovato sulla pagina del papà di Daniele. Sì. E dice: ciò che tocca il cuore non si cancella, le emozioni e i ricordi rimangono lì per sempre. Ma Pino è anche un grande scrittore, lo so. So che ha fatto un libro, mi diceva Chiara, sì, io sì, non lo sapevo. Sì. Ce l'hai magari qui sotto? Sì, sì, sì. No, non ce l'ho qui sotto mano, però me l'ha dato con la dedica, ovviamente. Certo. E lui sa sempre toccare il cuore, perché ha sempre scritto delle grandi cose. Lo so. E adesso ancora di più, purtroppo, ahimè. Sì. E vabbè, insomma, c'è questo sì, vuoto enorme. Però è sempre così. Lui e la moglie hanno una grande forza e devono essere di esempio, perché certe cose purtroppo nella vita possono capitare e loro lo stanno affrontando col sorriso sulle labbra e con grande forza, quindi. Certo. 22:56, Blu Radio Veneto, Agostino Spolore, Maurizio Calzavara, ma soprattutto gli Open Liberty con questo disco che si chiama Odyssey. Adesso Agostino, non so se sei d'accordo, facciamo sentire un pezzo da disco. Come vuoi, io sono e poi faremo la gran finale. Dai. Mm-hmm. Abbiamo preparato traccia numero 8. Sì, Craziness Dark. Sì. Che vuoi spiegare un momentino? Sì, in due parole parla di una ragazza che ha tutto, ma che per un insieme di circostanze si perde e va a vivere in città dormendo per strada. Dopo qualche anno decide di tornare in famiglia, ma il destino la fermerà. We'll be right back. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, Maurizio diceva il gran finale. Prima però dobbiamo dire, insomma, dove si può acquistare il vostro disco, i vostri dati, se qualcuno vi vuole contattare, i vostri prossimi concerti, li ripetiamo, il vostro sito e quant'altro, insomma. Allora, il nostro disco, che è un disco autoprodotto da noi con Simone Cerchiaro, Radice Sonora Studio di Pozzanovo, si può trovare su richiesta nel nostro, su Facebook, su Twitter, sul nostro, il sito è ancora in costruzione, con le nostre mail e ai nostri concerti. Ricordo che ci sarà il nostro primo concerto dopo questa sera, al di là del live per Daniele, che è una cosa tutta particolare, e sarà lunedì 20 in centro a Conserva in Piazza Battisti per la fiera, l'inaugurazione, poi il primo di settembre, che è un sabato, a Battaglia Terme al Chiosco Valle Verde, immersi nella natura. È un posto veramente caratteristico, me ne sono innamorato, fortunatamente ci hanno dato la data, che quindi abbiamo unito l'utile al dilettevole. E poi ci sarà due concerti alle terme, uno la Notte Rosa ad Abano Terme in via Iappelli, grazie ad Adriana Graziano, sabato 8 settembre. E poi ci sarà il concerto in Piazzetta Buia a Monte Ortone di Abano Terme per una grande festa, sì, che si farà in quel preciso momento. Noi saremo la band di punta alle ore 22 e ci fa piacere e onore. Quindi a tutti i concerti troverete il nostro CD ufficiale e in più la nostra maglietta ufficiale. Bene, che Stefano indossa, dobviamo ripeterlo. Tutti Stefano quanti indossa. Noi indossiamo. E poi gli facciamo una foto e la mettiamo. E Marco, no, ma è veramente? Dove sono? Ah, le avete nascoste. Sì. Per quello marchiato sono nascoste. Sulla pelle. Esattamente. Va bene, sono le 23.03, prima di salutarvi, cosa ci fate ascoltare per il vostro finale, diciamo? Gran finale. Allora, la canzone si intitola You Have to Believe, cioè tu devi crederci, parla di una persona che, la classica persona sfigata, alienata dal mondo reale, che inizia a vivere senza speranza e senza sogni, che sono la base di tantissime cose, della vita soprattutto. A un certo punto scopre la fede, Dio lo chiama e Dio crede in lui e gli manda dei segnali chiari. Per lui la svolta e diventerà una grandissima persona, avrà un grande successo nella vita. Allora, io direi di ringraziare anche il vostro produttore, cioè Simone Cerchiaro, e anche il vostro batterista che manca questa sera Tiglio. Fisicamente, insomma, Attilio Nin. Ciao Attilio! E poi, insomma, ciao. Poi quindi un grazie particolare alla voce, cioè a Stefano Giorio. Grazie a voi. Marco Orlando al piano. Grazie a voi. A Massimo Arles alla chitarra. Ciao, grazie. E Stefano Masiero al basso. Ciao a tutti, grazie. È la fotografa, vero? È la Chiara, sì, la fotografa. Grande Chiara. È onorata, lo ripeto, di essere parte integrante del vostro progetto. Insomma, un grazie anche da parte nostra di Blu Radio Veneto. Maurizio, noi domani facciamo festa. Sì, oggi domani è Ferragosto, quindi festa per tutti. E la radio, però, chiaramente sì, va avanti con le sue programmazioni musicali. Riprendiamo giovedì. Il tuo giorno culmine, importante. C'è una cantante che ci viene dalla Toscana, ci viene a far ascoltare la propria musica, Anna Maria Iorio, in arte sorgente, presenta un nuovo disco, molto bello, vi consiglio, quindi la musica italiana, diciamo, di qualità. Insomma, poi ci saremo anche venerdì 17. E poi ci saremo una settimana piena, questa veramente, insomma. Va bene, un grazie di cuore veramente alla partecipazione di questa band, cioè gli Open Liberty, che ci hanno presentato questa Odyssey. L'appuntamento, dicevo, ripetiamo, è a giovedì prossimo. Un buon proseguimento all'ascolto dei programmi di Blu Radio Veneto, che continuano ovviamente con la nostra musica, quindi state lì, non cambiate canale. Ragazzi, grazie di cuore, vi aspettiamo per il disco nuovo. Venite a trovare. Se ci volete, siamo qua. Ok, allora vi aspettiamo prossimamente. Ciao e buon in bocca al lupo per il vostro prossimo. Grazie, ciao a tutti. Prego. You have to believe. You have to believe. You have to believe. You have to believe. You have to believe. You have to believe. You have to believe. I'm aware to have done something wrong. I've been weak when I didn't have to. I haven't been able to look beyond appearances of a lie that runs so fast and doesn't care about anyone. I thought I was a loser and that everyone was luckier than me. I am looking up in the sky to look for somebody to play. I have screamed, my anger and tears disappeared, but a voice started to shake my pains and my alienation. Had screaming at me, you have to believe as I believe to I am. I will guide you, and I won't leave you. You have to believe. Hello. I feel like if I've lost everything, a crusher that casts with no hope. By the society that sparkles on them and then kills you, that dances as a vulture over your skin. But your voice strongly stormed toward me by screaming at me, you have to believe as I believe I am. The fly will guide you, and I won't leave you. You have to believe. You have to believe. You have to believe. You have to believe. Now I believe, and I want to dance over my fear. Now I believe, and I want to take this chance. You want to believe. I want to jump above this alienation wall and start to live again and love myself. Now I believe, you keep staying close to me. I can make it. A tutti, ciao. Ciao, grazie ancora, ciao, grazie. Ciao, ciao.